giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Del fatto del 2 marzo non gli interessa niente assolutamente. Lei aver ammazzato un poliziotto, averne ferito un altro proprio. Il suo scopo era quello di far propaganda, le loro idee, le loro idee che poi portano sulla morte. Parla così Alma Petri, la moglie del poliziotto Emanuele, rimasto ucciso nella sparatoria del 2 marzo 2003 sul treno interregionale Roma-Firenze, insieme al brigatista Mario Galesi. Alma Petri non intende perdonare Nadia Desdemona Lioce, arrestata quel giorno dopo il conflitto a fuoco con le forze dell'ordine. Ma chi era il poliziotto Emanuele Petri? Nato a Castiglion del Lago il 1 febbraio del 1955, Petri era entrato in polizia nell'ottobre del 73 come allievo, frequentando il corso nella scuola di Trieste. Nel maggio del 74 era stato trasferito a Roma all'autocentro di polizia, poi nel 75 in quello di Firenze. Nel 78 era arrivato alla questura di Arezzo, dove era rimasto fino all'agosto del 91, anno in cui era passato al compartimento di polizia ferroviaria di Arezzo. In questo lungo periodo Emanuele si era sposato e aveva avuto nel 1984 un figlio di nome Angelo, che oggi ha 20 anni. Nel 1992 il sovrintendente era stato assegnato alla polizia ferroviaria di Terontola. Roma Tiburtina. All'alba un uomo e una donna parcheggiano un motorino nel piazzale della stazione degli autobus. Entrano in quella ferroviaria e acquistano 2 biglietti di sola andata. Arezzo è la loro destinazione. Sono le 6:19. La locomotiva inizia il suo lento viaggio verso il nord. Gli scompartimenti a quell'ora sono liberi. Il treno guadagna tempo e chilometri. Sfiora paesi e città lungo la tratta che corre parallela a quella dell'alta velocità. La donna è Nadia Desdemona Lioce. L'uomo è Mario Galesi, brigatisti latitanti. Le fermate sono brevi, le porte si aprono e si chiudono in pochi secondi. Spesso nessuno sale, nessuno scende. Il sole riflette i suoi raggi sui finestrini e lascia intravedere i contorni delle colline della verde campagna. Il cascinale ristrutturato con gli alberi intorno, le valli attraversate dai fiumi, i coltivi, le vigne, gli ulivi, sentieri, il solco ben visibile nella terra rossa. Sono le 8:24, stazione di Terontola, crocevia per l'Umbria. Il portellone dell'interregionale 2304 si spalanca. Pochi attimi. Il capotreno fischia, il semaforo è verde, il locomotore accelera e a bordo salgono 3 uomini della polizia ferroviaria. Li guida il maresciallo Emanuele Petri, con lui c'è l'agente Giovanni Di Fronzio e il sovrintendente Bruno Fortunato. In apparenza sembra un normale controllo di routine. Racconta Fortunato davanti ai giudici del Tribunale di Firenze. Abbiamo iniziato il controllo delle vetture. Controllo generale, controllare viaggiatori, controllare i bagagli, controllare persone eventuali sospette, prendere generalità eventualmente, contattare la sala operativa per eventualmente se hanno dei precedenti da dare. Di Fronzio e Fortunato si fermano, controllano i documenti di un passeggero della carrozza numero 4. Petri è davanti a loro. Dentro uno scompartimento ci sono Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi. Il treno, a quel punto, è in leggero movimento e si trova tra le stazioni di Cortona Camucia e Castiglion Fiorentino. Petri si avvicina a Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi, chiede loro i documenti. I brigatisti si alzano e gli consegnano le carte d'identità. Sono ben contraffatte su documenti rubati. Per la centrale operativa della polizia i 2 nomi sono puliti, come si dice in gergo, ma Galesi teme di essere scoperto, così estrae la pistola dal giubbotto, una beretta calibro 7.65 e la punta al collo di Petri. Prosegue il suo racconto Bruno Fortunato. Il collega Petri è andato più avanti, da solo, era davanti. Sì. Ho alzato gli occhi e ho visto che entravo in un compartimento chiuso. Sì. Che ho visto che c'era qualche viaggiatore, no? Lì per lì non ho visto quante persone erano. È uscito con dei documenti, c'aveva dei documenti in mano, sì. È uscito e si è messo fuori al compartimento nell'angolo a telefonare, perché noi abbiamo un telefono cellulare, collegamento con la sala operativa di Firenze, sì. Quindi per comunicare, e in quel momento stava incominciando secondo me a comunicare i dati, i documenti. In quell'attimo ho alzato lo sguardo e ho visto che c'era un viaggiatore, uno dei due, che puntava al collega una pistola. Sono attimi, secondi, frammenti minuscoli di tempo. Bruno Fortunato li narra come fosse una pellicola di un film, ma una fiction proprio non è. È storia vera, accaduta in Italia. Pelle di spalle, Galesi di fronte, che teneva sotto minaccia la pistola al collo. A quel punto ho estratto la pistola e l'ho armata. L'ho messo sulla sinistra e l'ho armata. Con la mano la tenevo nascosta dietro una poltrona. Quindi non ho fatto altro che cercare, in secondo momento, quando Galesi ci ha intimato di buttare via le pistole, è uscita l'imputata, mi è passata di fianco, l'ho cercato di spostare. Lei, diciamo che era quasi incurante verso di me. In quel momento, quando mi è passato di fianco, ce l'avevo dietro, io ho sentito un colpo. Quindi mi sono sentito un pizzico. Infatti ero stato colpito, qui all'addome, qui. Quindi mi sono piegato. E automaticamente, o sarà stata la rabbia o qualcosa, ho alzato l'arma e ho sparato. A terra resta il corpo ormai senza vita del poliziotto Emanuele Petri e del brigatista Mario Galesi. Fortunato rimane ferito in modo grave, ma non se la sente di colpire Nadia Desdemona Liuce. Non voleva più saperne di sparare. Poi mi sono girato, perché il collega di Fronzo in quel momento mi ha detto: Bruno, dammi una mano. Mi sono girato, ancora con la pistola in mano, e lì me la sono sentito di fare altre cose. Comunque, di sparare. La corsa del treno interregionale 2304 si interrompe in modo brusco a Castellon Fiorentino. Nadia Desdemona Liuce viene disarmata ed arrestata. Poco dopo sceglie una frase che fa impressione. Mi dichiaro prigioniera politica, sono militante delle Brigate Rosse. Restano i ricordi e la memoria di una storia che si ripete ancora oggi. A molti anni dalla fine della lotta armata di sinistra, accade che un gruppo di poliziotti in un normale controllo di routine sopra un treno si imbattano negli ultimi reduci delle Brigate Rosse armate di pistola. Ed esattamente come negli anni di piombo, in un conflitto a fuoco, restano a terra poliziotto e terrorista. Solo che il poliziotto è lì per lavoro. Non si è svegliato di mattina per realizzare un sopralluogo, per uccidere e ferire qualcuno. Quel controllo, su quel treno, Emanuele Petri lo fa servendo lo Stato. Sulla sua tomba, sul lago Trasimeno, qualcuno ha lasciato poche righe. Essere poliziotti non è un lavoro, è una vocazione, spesso incompresa dalla popolazione o spesso dimenticata. Ci vuole sempre la perdita di un agente che ha sacrificato la propria vita per capire finché non si torna a dimenticare. Vorrei che Emanuele rimanga per sempre insieme a tutti quegli altri agenti che hanno perso la vita per tutelarci. Nella mente di tutti noi e non solo in quella dei suoi familiari, auspico che non solo il Ministero dell'Interno ma anche i libri di storia non si dimenticano. Ciò affinché la storia torni ad essere utile per il futuro e non l'opposto.